campana suona ancora e il mondo non si sveglia. Suona dall'alba all'aurora, suona contro la miseria. Male, ma dormo beato e con me tanta gente che continua indifferente a vivere sopra un massacro. E la campana suona ancora e il mondo non si sveglia. Suona dall'alba. Suona contro la miseria e suona la campana, suona, suona di speranza, ma noi ci facciamo più in là. E suona, basta il tempo dell'ennesimo sacrificio in nome della nostra sazietà. E suona sulla terra oramai dissanguata, estirpata e venduta dalla nostra società, che si è presa il diritto di decidere per tutti in nome della buona moralità. E non smette neanche quando ormai stiamo cadendo, andando verso la fine della realtà. E non smette perché lei ha un compito preciso: risvegliare l'umanità.